si aggiunta addirittura soprattutto, invece addirittura quando andavamo fuori così in trasferta, prima una volta mi ho dovuto mandare via giù io, mi ho dovuto mandare, poi fa cosa da sentare, una cosa di sentire, ah non venirmi, allora non ti andiani, ma fai di che ho. Purtroppo era così, allora mi sentite così, ma io oggi la fretta è pagata, se non era italiano non mi curi, ma che vuoi dire, si sono scitati un po', ecco, di musi, prima era un po' carico a lavoro, pure un calcio era così, prima lo giocatore come tessi, ai tempi di 40 anni fa, di 50 anni fa, dove noi eravamo di oggi, tutto gennaio, arrivavano come tessi, ma era una miseria, di voi, non so chi era, ecco, oggi invece, a parte il fratello con un altro giorno, sono gli arricchi, e fondati muro, purtroppo è così. Che da poi mi ha messo, da quando mi sono andato da qui mi sono scritto una palestra di bucile, allenamento, un mesetto e tutto lì. La prima lì mi ha posto, la prima volta mi ha posto, gli ha dato un ring, mi ha rivinto questo pugno a faccia, in pieno. Cazzo, non mi sono più andato, Giulio, e gli ha scritto la mia, e ci ha cacato un capo. Ho bucilato, buco, è uno sport un po' carino contro i convidanti, ma non è uno sport violento addirittura, sarà pur meglio da vedere, però è uno sport violento, non è così, no, vedi, che sembra, è pure una cosa sassa, sai, se ti puni a ricchivi, allena magari chi ti chiederà più abbattuta la danza, con la preparazione, eccetera, e tu ti fai lo sacco a Rito che devi fare incontro, non andare così, no. Non andare assolutamente. Purtroppo così, però, si sa, uno quando intraprendere un'attività del genere, devi considerare poi questo, perché i colpi devi mantenere, anche se no è inutile andare, è inutile no, non vuoi fare. Poi c'è paura che più debole di te, ma poi c'è paura che può più forte. E allora bisogna supportare. Se uno non va l'espirito di supportare, è meglio mollare subito e basta, non ne vai e basta. Allora, una volta a Rimini, ma mi chiamano a San Natale, da Pettino, l'angolo, all'altoparlante, e dove la chiudo tutti la sera, amici miei, e ti vengo qui su una montagna, mi viene il posto, io con quello lì devo incontrarmi. Allora parte allo Stato e Calibera e dice, ma chi c'è più malo di me, chi c'è pesano doppio di me? No, sei lì, vuol dire che il peso è quanto il tuo, quanto il mio. Sarà, ma che tratto, ma bussurà di l'aria, ma questa terra tra quattro voci, voci un uomo. Poi da sempre più grosso di te, casomai non è stato pensato qui, ma a meno che non gli ha fatto un traffico, ho fatto un misto, e allora, oh, qui se ne va sempre un traffico, e un momento, ad esempio, questo sostiglia, un bel voce sostiglia, soprattutto in una pesantina di Cagliari, e sai cosa combinava, e ti mandava nella circolare, lì fai la gara, da lì fai una gara a Cagliari, vai lì, della lunghezza di 10 km. Da poi andava anche da un bel corso invece di 15 o di 17 o di tutto. Così, tu fai una posta, così chi ti prepara a fare 10 km. E alla fine non ve la potete dire sì, da fare tutto un bel corso ad alto coso, efficienza, un peso. E allora e di svaziare il gioco, ma fa pulire l'atleti di casa, l'atleti di letti, va tessi. Ma la buia non l'abbiamo copiato, lo sappia, mi la buia il corso dell'anno, no? Lo sappia, dice che cos'è, si va di fare la caglia di 4 centesimi, non so 10 chilometri, sono 15 chilometri, oppure si deve fare la caglia di Moetto Cagliari, andate a ritorno. 96 cose, 10 km, ma che 10 km? Da voi lo misuravo in quel coso e vedete quei 10 km, e te lo fate una porta, te lo fate via, compreso, ma per voi la dovete bene, purtroppo i trucchi che hanno preso, ma non fate pure così niente, ne fate solo solamente e non pensate di niente, ne fate un po' con tutti i cattivi uomini che mi date le vecchie. Quello già lo so perché pare che incontri mi dizia Cambo chiudevi al terzo quarto rando, tu devi fare vincere a lui e tu ti metti al tappeto perché se tu pago ma ti dico io tu pago già non ti interessa e di blu che sta mi piace e se io vi la posso a caputa e da ti mi devo a caputa se sta a caputa cazzo si incazzava a burro, e allora doveva fare come se mi dizia che la bolla di ghiaccio di Rimini me la mette a cura, allora era più alto di due volte di me, più alto di due volte, uno, grosso che pareva una montagna, cazzo sbaglia più ci confronta Edo, e mi dizia, Edo rubato, cambo le gambe, mi fa mettere a cura, io cazzo le gambe, mi cogliava la gran palla all'acqua, ma l'hanno di busca. Chi ti si girava, mi pigliava la palla che ammazzava in aria. Vai a buoni fremo, vai via. C'erano tutti di te, Gloria. Gloria, l'hanno fatto tale e tale imbrogliato, dai, purtroppo, ora così. Alle volte bisogna intanirsi, chissà ne sono questi, compreso, i figli. Ogni sa proprio non venne mio sotto, in poche parole, non veniva prima e non veniva là, a chi lo sapevo, se i trucchi l'hanno fatti e come te l'hanno fatti a voglia e continuano a farle, e lo vedremo. Purtroppo venito magari chiede per te che poi si fa più una carriera più affrettata, un po' più brillante, e allora lancia di chiesto e pensi, come se non bucinato la tesi, ti posso fare incontro, ma se vedi che hanno un interesse su di te, vuoi patinare, tanto che ti presentano uno un avversario, magari che tu puoi fare, poi qui, no, puoi vedere. E allora ti faceva 7-8 due incontri così, e si fanno che mi fai fare un incontro maldito, e ancora no, questo ne faceva molto poco, e intanto fa tempo di patinare. Poi alla fine magari ti presentano lo campione magari più forte di te, perché tu hai fatto tutta una lunga preparazione, sempre con atleti magari di seconda fascia, e allora ecco che a questo punto presi, però magari non fa tempo intanto hanno fatto di là, è andata una passola a due, ho preso, ecco come ti funziona. Allora magna, che io gli dice, ma mi scusi, ma cosa devo fare? Al terzo grande mi devo fare capottare a Edo. Oh, quando io mi sento di con il luna giusta lì. No, tu devi fare come ti dico io, se no la prossima volta ti inizi a sassare. Così ti minacciava a burro, hai compreso? Io dico, vabbè, e allora dove fai i suoi di zia Edo? A chi vi mangiava un bel di nano, hai compreso? Un aiuto di magnazzo me ne voglio vivere. Ma io lo so qui, tante volte buono di lavori, non è che ne comprendi per tanto, che io ho fatto 80 anni di balletta, ero che sassare, ma tanti, però un bel danni. E dunque conosci un po' tutta la situazione, quante funzioni, intanto come ci si comporta nei societari. Ha interesse umano se si dai, l'allenatore che ha capacità e vane, soprattutto da allenati o da arruinati, anche più di lui da arruinati, cioè gli allenati, è l'allenatore. Ma io me lamento, ad esempio ai campionati di esagi nel 1962, e io dandomi via 20 anni, va via, e ai campionati di esagi 10 km su pista. Sono andato a quelli e pensa che allora il campionato di esatto si era svolto in Andorras e la Andorras non prendo campionato io travagliavo da una parte di casa in Piano Umberto sopra destino di arrivare a la buccia, no? E dopo via Crezioni, io Crezioni non la via a questa gara, poi sai lo travagliavo a chi vegani, gli sivaziani si sono fatti in giubi, io in giubi lavoriamo tutta la vita, no? Allora, magari sono se dai, dice, senta tu, vuoi correre? Io vorrei correre, ma non posso perché sto lavorando, io non posso lasciare il lavoro per andare a correre, a volte posso, a me non preso pari, non è che mi dà il sci, non è che mi dà il rimbalo per andare a correre, no, non è più, non preso pari, a me mi tiene solo il lavaglio, non la caratura. E vabbè, però, arrivo a sera, e ho dato nel frattempo, allo pomeriggio mi avevo regato tutta la tazzatura, lo so, no? Con tutta la tazzatura sportiva per esecutare il tabulamento, era che aveva la intenzione di dire, vabbè se pare se mi va 10, magari mezz'ora prima della gara, se mi va 10 fa andare con lì. Ed io avevo un po' di paura, che sapeva quanti erano per separare, non è che era andato tanto denaro, l'hai compreso. E ma sei vicino alle banche di due operati, e ti ho detto, ma tanto niente, non posso mandare un piazzino. E dimmi, c'è una cosa che tu posso fare, e poi ho fatto, sai, te lo sai, io forse lo sport, così, lo so, qui, oggi c'è il giornale, c'è la cosa, la radio, muro, eccetera, eccetera. E allora, il casino mi sono lì, le campionate sagge, non è che mi vado sci, panda così, no? Io ho detto, ma va, era un po', tanto me l'ha fatto in tutto, sono guaggiato, sono qualche cassa, ne ha tutti, al massimo un mese, no? Beh, e mi fa, dai cosa sono tirati? Alle 5, a vai dai, sono giù, sono 5 poco qua, cioè ancora non così, è fitta manco, me l'ha gustato, così, figlio, che dico, faccio un picchiato, se muovo tutti i ferri dentro un cascione, così, mi siete le manco a piccarli, se non parte dentro un cascione, lo manco, piglio, affliscio e faccio, hanno gli spogliatoi, e mi preparo, mi chiamo, io mi muovo tutta la testa della sportiva, e era tutta, e poi sono vicino, e la BTGP mi sarebbe morto dentro lo so, no? E sono cantato correndo, tanto è arrivato, si chiede per i problemi, da via Lombardo, sotto correndo, e andiamo a fermarmi, si stava a Caradoro, si sento direttamente in pista, e mi rivolgo un secco con Francesco Bonzini, buon'anima, che era presidente della federazione, allora ero il provinciario. E dicevo così, non è che mi fa correre, tu senti, ma tu non hai discrezione, lo so, per questo motivo, perché beh, stavo lavorando, la società mi voleva fare discrezione, ma io non perché stavo lavorando, non credevo di poter uscire dal lavoro, eccetera, eccetera. No? E te, ma c'era da pagare anche la cauzione per il numero, allora se pagavo buona cauzione, ma il numero, quando la pago io la cauzione per il numero, quanto è? E tu mi dici 500 lire, tanto bene. Lì, no? E ci pagato la cauzione, poi te la tornavano intanto, quando tu tornavi il numero, te la tornavano in no. Beh, meglio, aspetta mio padre, aspetta, adesso io devo parlare con tutti gli altri dirigenti, se sono d'accordo con te, insomma, richiamo se posso ed è riuscito a farmi partecipare alla gara. Tu pensa, io risulto, non vedo un'anima, se dai, via, non vedo un compagno qua, non vedo nessuno. Quindi gareggiamo, repita. Allora, tu hai detto, quando la mia metà di gara, arrivi, lo detto sportivo, se tu mi piosecchi, mi ha detto sportivo da lui, da Gianni Ruio, e cosa ha fatto? Quando mi ha visto che era da attaccato, e tu mi stavo lì da lì, invece era da anzi, ma via, penso io di vantaggio, ma via. E mi si è posta a portare avanti, ma guarda che come va? Si vede che qualcuno ha detto cosa, chi mi ho? Tanto la buia, allora quando sono passato, d'ora, che viene in pista, no? Allora passaggio, ma come buia ha fatto, vedo, all'esterno della pista, come buia ha fatto, mi ha chiarito i tempi, no? Che se vado così, lo tempo a giro, tu, te rivoleggi, tanto tempo, per dire, si impiegheni tanto a giro, te rivoleggi la borsa, ma poi arrivi alla fine della gara. Insomma, poco barato, alla fine, ha giocato la gara e ha vinto, e sono diventato campione dell'altro. Ma dici no, cosa mi ha dato? Mi ha dato due citti e una medaglia, mi ha dato. Adesso se dai, ha avuto un finanziamento dalla parte della regione, proprio per effetto della vittoria che ho fatto io, ho preso. E dunque a me non mi ha dato niente la società, mi ha dato solo un primo di gara e basta, ho preso. Che tutto male assumere, fanno schifo dappertutto di tutti gli sport, è magna magna. A dare il quadro di pallone, si vende, non abbassare di una che pigliare, si fa nelle burbe, cane di là, fanno segnata, ricco, e tutta la truppa. Oh Giulio, io ho lasciato accedere, cioè che qua mi devo fare qualche cosa, al limite poi rientro, eh? Io che chiama e tu io vado, mi voto la mai, ma così mi questo burro, così al manco, anche se vuoi ancora i pantaloni gocci. Vabbè, sentiamo eventualmente in dettaglio, ciao, okay, ci sentiamo, ciao. Ciao, c'è anche se c'è qualche sviluppo, però mi organizzerò qualche cosa. Ok, d'accordo, ci sentiamo da voi, dai, ciao, ciao. Ciao.